A quell'ora, in cui scendevo a informarmi sul menù, i preparativi per la cena erano già cominciati e Françoise, che comandava le forze della natura, divenute sue ancelle, come nelle fiabe dove i giganti si fanno assumere come cuochi, smuoveva il carbone, cuoceva al vapore le patate per lo stufato e ripassava al fuoco i capolavori culinari preparati preventivamente in recipienti di ceramica che andavano dalle grandi bacinelle, dalle marmitte, dai paioli e dalle pesciere, alle terrine per la selvaggina, agli stampi per i dolci e alle ciotole per la crema, passando attraverso una collezione completa di casseruole di tutte le dimensioni. Mi fermavo a guardare sul tavolo, dove la sguattera li aveva appena sgusciati, i piselli allineati e contati come biglie verdi di un gioco. Ma dove mi estasiavo era davanti agli asparagi, imbevuti di azzurro oltremare e di rosa, la cui punta, finemente spruzzata di malva e di azzurro, sfuma insensibilmente fino al gambo, ancora sporco del terriccio della pianta, in iridescenze che non sono terrene. Mi sembrava che quelle sfumature celesti svelassero le deliziose creature che s'erano divertite a tramutarsi in legumi, e che attraverso il travestimento della loro polpa commestibile e soda lasciavano scorgere in quei colori nascenti d'aurora, in quell'abbozzo di arcobaleno, in quello spegnersi di sere azzurre, l'essenza preziosa che riconoscevo ancora quando tutta la notte che seguiva una cena in cui ne avevo mangiato, si divertivano nelle loro farse poetiche e grossolane, come in un racconto shakespeariano di fate, a trasformare il mio vaso da notte in un'anfora di profumo. La povera carità di Giotto, come la chiamava Swann, incaricata da Françoise di spennarli, li teneva accanto a sé in un canestro. Aveva un'aria dolente, come se soffrisse tutti i mali della terra, e le leggere corone d'azzurro che cingevano gli asparagi al di sopra delle loro tuniche rosa erano finemente disegnate stella per stella, come nell'affresco di Padova i fiori che cingono la fronte o spuntano dal canestro della virtù. Nel frattempo Françoise girava sullo spiedo uno di quei polli, come soltanto lei sapeva arrostirli, che avevano diffuso in tutta Combray l'odore dei suoi meriti e che quando ce li serviva in tavola facevano prevalere la dolcezza nella mia particolare concezione del suo carattere, perché l'aroma di quella carne che lei sapeva rendere così untuosa e così tenera non era per me che il profumo stesso di una delle sue virtù. Ma il giorno che scesi in cucina, mentre mio padre consultava il consiglio di famiglia sull'incontro con Le Grandin, era uno di quelli in cui la carità di Giotto, molto sofferente per il suo parto recente, non poteva alzarsi dal letto, e Françoise, senza più aiuto, era in ritardo. Quando arrivai giù, nel retrocucina che dava sul cortile, Françoise era intenta a uccidere un pollo che, con la sua resistenza disperata e del tutto naturale, ma accompagnata da Françoise che fuori di sé cercava di mozzargli il collo sotto l'orecchio al grido di «brutta bestiaccia», metteva in luce la santa dolcezza e la compunzione della nostra domestica un po' meno di quanto non avrebbe fatto durante la cena dell'indomani, con la sua pelle ricamata d'oro come una pianeta e il suo sugo prezioso stillato da un ciborio. Quando fu morto, mentre Françoise raccoglieva il sangue che colava senza soffocare il proprio rancore, ebbe ancora un sussulto di collera e, guardando il cadavere del nemico, disse un'ultima volta «brutta bestiaccia». Risalei tutto tremante. Avrei voluto che Françoise fosse messa immediatamente alla porta. Ma chi mi avrebbe preparato delle boule così calde, del caffè così profumato e anche quei polli? E in realtà, quel bieco calcolo, tutti dovevano averlo fatto, come me. Infatti, zia Léonie sapeva, cosa che io ignoravo ancora, che Françoise, pronta a dare la vita senza un lamento per sua figlia, per i suoi nipoti, era con le altre persone di una durezza singolare. Malgrado questo, mia zia aveva continuato a tenerla, perché se ne conosceva la crudeltà, ne apprezzava il servizio. Io mi accorsi a poco che la dolcezza, la comprensione, le virtù di Françoise nascondevano tragedie di retrocucina, così come la storia va rivelando che i regni dei re e delle regine, rappresentati con le mani giunte nelle vetrate delle chiese, furono macchiati da fatti sanguinosi. Mi rese conto che al di fuori dei suoi parenti, gli esseri umani tanto più eccitavano la sua pietà con le loro sventure, quanto più vivevano lontani da lei. I torrenti di lacrime che versava leggendo il giornale sulle disgrazie di sconosciuti si inaridivano immediatamente se poteva rappresentarsi con qualche precisione la persona che ne era l'oggetto. Una delle notti che seguirono il parto, la sguattera fu colta da coliche atroci. La mamma, sentendola lamentarsi, si alzò e svegliò Françoise, la quale, insensibile, dichiarò che tutte quelle grida erano una commedia, che la sguattera voleva fare la signora. Il medico, in previsione di quelle crisi, aveva messo un segno in un libro di medicina che avevamo in casa, alla pagina in cui erano descritte, e ci aveva detto di fare riferimento a quelle indicazioni per le prime cure da prestare. La mamma mandò Françoise a cercare il libro, raccomandandole di non perdere il segno. Dopo un'ora Françoise non era ancora tornata. La mamma, indignata, pensò si fosse rimessa a letto e mi disse di andare a vedere in biblioteca. Trovai Françoise che, avendo voluto guardare alla pagina segnata, stava leggendo la descrizione clinica della crisi ed era scossa dai singhiozzi, perché ora si trattava di una malattia che lei non conosceva. A ogni sintomo doloroso menzionato dall'autore del trattato esclamava: «Oh, Santa Vergine, è mai possibile che il buon Dio voglia far soffrire così una disgraziata creatura umana? Oh, poveretta!» Ma come l'ebbi chiamata e fu di nuovo accanto al letto della carità di Giotto, le sue lacrime di colpo cessarono di scorrere. Non riusciva più a ritrovare né quella piacevole sensazione di pietà e di commozione che ben conosceva e che la lettura dei giornali le aveva spesso procurato, né alcun altro piacere dello stesso genere, nel fastidio e nell'irritazione di essersi dovuta alzare nel cuore della notte per una sguattera. E alla vista delle stesse sofferenze, la cui descrizione l'aveva fatta piangere, non ebbe che brontolì di malumore o addirittura atroci sarcasmi, dicendo, quando ritenne che ce ne fossimo andati e non potessimo più sentirla: «Bastava non fare quello che ti porta a questo bel risultato, no? Le è piaciuto? Allora, non faccia tante storie adesso. Uno deve essere proprio abbandonato da Dio per farsela con questa. È proprio come si diceva nel dialetto della mia povera mamma, che del cul d'un cane si innamora, si crede che è una rosa e va in malora». Se quando il suo nipotino aveva un leggero raffreddore, lei si metteva in strada di notte, anche malata, invece di mettersi a letto per vedere che non avesse bisogno di niente, facendo a piedi 4 leghe prima dell'alba per poter rientrare in tempo al lavoro, in compenso, quello stesso amore per i suoi e il desiderio di assicurare la grandezza futura della sua casa si traducevano, nella sua politica verso gli altri domestici, in una massima costante: non consentire a uno solo di loro di mettere radici in casa di mia zia, che lei tra l'altro, per una sorta di puntiglio, non lasciava avvicinare da nessuno, preferendo, anche quando lei stessa era malata, alzarsi dal letto per darle la sua acqua di Vichy, pur di non permettere alla sguattera l'accesso alla camera della padrona. E come l'imenottero osservato da Fabre, la vespa scavatrice che per assicurare ai piccoli dopo la sua morte cibo fresco da mangiare chiama l'anatomia in soccorso della sua crudeltà e, avendo catturato qualche punteruolo o qualche ragno, gli trafigge con sapienze e abilità mirabili il centro nervoso da cui dipende il movimento delle zampe ma non le altre funzioni vitali, di modo che l'insetto paralizzato accanto al quale depone le uova fornisca alle larve, quando si schiuderanno, una docile preda inoffensiva, incapace di fuggire e di opporre resistenza, ma per nulla frollata, Françoise, per assecondare la sua ostinata volontà di rendere la casa insostenibile da parte di qualsiasi domestico, inventava astuzie così sottili e spietate di cui solo molti anni dopo venimmo a sapere, che se quell'estate avevamo mangiato asparagi quasi tutti i giorni, era stato perché il loro odore procurava alla povera squattera incaricata di pulirli delle crisi d'asma di tale violenza che alla fine fu costretta ad andarsene. Ahimè, su Le Grandin dovevamo definitivamente cambiare opinione. Una delle domeniche che seguirono a quell'incontro sul Pont-Vieux, dopo il quale mio padre aveva dovuto ammettere il proprio errore, mentre la messa stava per finire, e nella chiesa, insieme al sole e al frastuono che veniva dall'esterno, entrava qualcosa di così poco sacro che Madame Goupil, Madame Pespier, tutte le persone che poco prima il mio ingresso, un po' in ritardo, erano rimaste con gli occhi assorti in preghiera, avrei perfino potuto credere che non m'avessero visto arrivare, se, al tempo stesso, i loro piedi non avessero spinto leggermente indietro il banchetto che mi impediva di raggiungere la mia sedia, cominciavano a intrattenersi con noi a voce alta, su argomenti assolutamente temporali, come se fossimo già sulla piazza. Vedemmo sulla soglia avvampata del portico, sovrastante il tumulto variopinto del mercato, Le Grandin, che il marito della nobildonna con la quale l'avevamo ultimamente incontrato stava presentando alla moglie di un altro grosso proprietario terriero dei dintorni. Il volto di Le Grandin esprimeva un'animazione, uno zelo straordinari. Salutò con un profondo inchino, accompagnato da un rovesciamento complementare all'indietro che portò bruscamente il suo dorso al di là della posizione di partenza e che doveva avere appreso dal marito di sua sorella, Madame de Cambremer. Quel raddrizzamento rapido fece rifluire in una sorta di onda impetuosa e muscolosa il sedere di Le Grandin, che non immaginavo così in carne, e non so perché quell'ondeggiamento di pura materia, quel fiotto tutto carnale, senza alcuna espressione di spiritualità, e che un servilismo zelante sferzava in tempesta, evocarono d'un tratto nella mia mente la possibilità di un Le Grandin tutto diverso da quello che conoscevamo. La nobildonna lo pregò di dire qualcosa al suo cocchiere, e mentre lui si dirigeva verso la carrozza, l'impronta di gioia timida e devota che la presentazione gli aveva impresso sul volto vi persisteva ancora. Rapito in una sorta di sogno, sorrideva. Poi si affrettò a tornare verso la nobildonna e, siccome camminava più svelto del solito, le spalle gli oscillavano ridicolmente a destra e a sinistra e aveva l'aria, tanto completamente vi si abbandonava, incurante di tutto il resto, di una marionetta meccanica e inerte della felicità. Nel frattempo, noi uscivamo dal portico e stavamo per passargli accanto. Lui, troppo educato per girare la testa da un'altra parte, con lo sguardo carico all'improvviso di un'intensa espressione sognante, fissò un punto così lontano all'orizzonte che non poté vederci e non dovette salutarci. Il suo volto restò ingenuo al di sopra della giacca morbida e diritta che pareva suo malgrado trovarsi fuori posto in mezzo a un lusso detestato. E una cravatta lavaliere a pois, agitata dal vento della piazza, continuava a garrire su Le Grandin come il vessillo del suo fiero isolamento e della sua nobile indipendenza. Al momento di rincasare, la mamma si accorse che avevamo dimenticato la Saint-Honoré e pregò mio padre di tornare indietro con me a ordinare che ce la portassero subito. Vicino alla chiesa incrociammo Le Grandin che veniva in senso contrario accompagnando alla sua carrozza la stessa nobildonna. Incrociandoci, senza smettere di parlare alla sua vicina, dall'angolo del suo occhio azzurro ci lanciò un piccolo segno, in qualche modo interno alle palpebre, e che, non coinvolgendo i muscoli del viso, poté passare perfettamente inosservato da parte della sua interlocutrice. Ma, cercando di compensare con l'intensità del sentimento la ristrettezza del campo in cui ne circoscriveva l'espressione, in quell'angolo d'azzurro che c'era assegnato, fece scintillare tutto il brio della buona grazia, che andò oltre la piacevolezza, sfiorando la malizia, spinse le sottigliezze dell'amabilità fino all'ammicco della connivenza, alle mezze parole, ai sottintesi, ai misteri della complicità. e infine esaltò le attestazioni di amicizia fino alle proteste di tenerezza, fino alla dichiarazione d'amore, illuminando allora per noi soli, di un languore segreto e invisibile alla castellana, una pupilla innamorata in un volto di ghiaccio. Proprio il giorno prima, Le Grandin aveva chiesto ai miei genitori di mandarmi a cena da lui quella sera. «Venite a tenere compagnia al vostro vecchio amico», m'aveva detto. «Come il bouquet che un viaggiatore ci manda da un paese dove non torneremo mai più. Fatemi respirare, dalla lontananza della vostra adolescenza, quei fiori delle primavere che ho attraversato anch'io tanti anni fa. Venite con la primula, la barba di prete, il botton d'oro, venite con il sedo, di cui è composto il bouquet di elezione della flora balzacchiana, con il fiore del giorno della resurrezione, la pratolina, la palla di neve che comincia a mandare il suo profumo lungo i viali del giardino della vostra prozia quando ancora non si sono sciolte del tutto le ultime palle di neve sopravvissute agli acquazzoni di Pasqua. Venite con la gloriosa veste di seta del giglio degno di Salomone e con lo smalto policromo delle viole del pensiero, ma venite soprattutto con la brezza ancora fresca delle ultime gelate che dischiuderà la prima rosa di Gerusalemme per le due farfalle che da stamattina attendono alla porta. Ci si chiedeva a casa se si dovesse mandarmi ugualmente dalle Grandin, ma la nonna si rifiutava di credere che fosse stato scortese. Riconoscete anche voi che va in giro come al solito, nella sua tenuta molto semplice, senza nessuna mondanità. In ogni caso, dichiarò, anche a voler pensar male, se era stato scortese, era meglio avere l'aria di non essersene accorti. A dire il vero, anche mio padre, che tra l'altro era il più seccato per il comportamento di Le Grandin, nutriva ancora un ultimo dubbio sul significato da attribuirgli. Era come tutti gli atteggiamenti o le azioni in cui si rivela il carattere profondo e segreto di qualcuno. Non hanno alcun nesso con le parole precedenti. Non possiamo farceli confermare dalla testimonianza del colpevole che non confesserà. Dobbiamo accontentarci di quella dei nostri sensi, di cui ci chiediamo, dinanzi a quel ricordo isolato e incoerente, se non siamo stati vittima di un'illusione. Di modo che quegli atteggiamenti, i soli che abbiano importanza, ci lasciano spesso qualche dubbio. Cenai con Le Grandin sulla sua terrazza. C'era la luna. «C'è una bella qualità di silenzio, non è vero?» mi disse. «Un romanziere che voi leggerete più avanti sostiene che ai cuori feriti come il mio si addicono soltanto l'ombra e il silenzio. E vedete, ragazzo mio, giunge nella vita un'ora, la vostra è ancora lontana, in cui gli occhi stanchi non sopportano più che una sola luce, quella che una bella notte come questa prepara e distilla con l'oscurità, in cui gli orecchi non possono ascoltare altra musica che quella suonata dal chiaro di luna sul flauto del silenzio». Ascoltavo le parole di Le Grandin, che mi sembravano sempre così soavi, ma turbato dal ricordo di una donna che avevo visto di recente per la prima volta e pensando, ora che sapevo che Le Grandin, legato a parecchi personaggi dell'aristocrazia dei dintorni, poteva forse conoscerla, fattomi coraggio gli chiesi «Conoscete per caso la... i Castellani di Guermantes?» Felice, anche nel solo pronunciare quel nome, di prenderne in qualche modo possesso, per il solo fatto di estrarlo dal mio sogno e dargli un'esistenza oggettiva e sonora. Ma al nome di Guermantes, vidi dentro gli occhi azzurri del nostro amico aprirsi una piccola fenditura scura, come le avesse trafitti una punta invisibile, mentre il resto della pupilla reagiva secernendo fiotti d'azzurro. Il contorno della palpebra si annerì, si abbassò, e la sua bocca, segnata da una piega amara, riprendendosi più rapidamente, sorrise, mentre lo sguardo restava doloroso come quello di un bel martire dal corpo irto di frecce. «No, non li conosco», disse. Ma invece di dare a un'informazione così semplice, a una risposta così poco sorprendente, il tono naturale e corrente che vi si conveniva, lui la proferì calcando sulle parole, piegandosi, facendo cenni col capo, con l'insistenza che si applica, per essere creduti, a una notizia inverosimile, come se il fatto che lui non conoscesse i Guermantes non potesse che dipendere da una coincidenza singolare. E anche con l'enfasi di chi, non potendo tacere una situazione per lui penosa, preferisce proclamarla pubblicamente, per dare agli altri l'impressione che la confessione che ne fa non gli crea alcun imbarazzo, anzi è facile, piacevole, spontanea, e che la situazione stessa, l'assenza di relazioni con i Guermantes, potrebbe benissimo essere stata non già subita, ma voluta da lui. Derivare da qualche tradizione di famiglia, principio morale o voto mistico che gli abbia impedito esplicitamente di frequentare i Guermantes. «No», riprese spiegando con le parole il tono di voce, «no, non li conosco, non ho mai voluto conoscerli. Ho sempre tenuto a salvaguardare la mia piena indipendenza. In fondo sono una testa giacobina, lo sapete». In molti sono venuti alla riscossa. Mi dicevano che facevo male a non andare a Guermantes, che mi comportavo come un villano, un vecchio orso. Ma è una fama che non mi spaventa, certo. È talmente vera. In fondo, io amo al mondo ormai solo qualche chiesa, due o tre libri, appena qualche quadro in più. È il chiaro di luna. Quando la brezza della vostra giovinezza reca fino a me il profumo dei prati che le mie vecchie pupille non distinguono più. Io non capivo perché, per non andare a casa di persone che non si conoscono, fosse necessario tenere alla propria indipendenza, e in che senso questo potesse farti apparire un selvaggio o un orso. Ma quello che capivo era che Le Grandin non era del tutto sincero quando proclamava di amare soltanto le chiese, il chiaro di luna e la giovinezza. Amava molto quegli abitanti dei castelli, e davanti a loro veniva assalito da una tale paura di non riuscire gradito che non osava mostrare di avere per amici dei borghesi, dei figli di notai o di agenti di cambio, e preferiva, se la verità doveva venire a galla, che avvenisse in sua assenza, lontano da lui e in contumacia. Era uno snob. Naturalmente di tutto questo non faceva trasparire nulla in quel suo linguaggio che i miei e io amavamo tanto. E se gli chiedevo «Conoscete i Guermantes?», Le Grandin, il conversatore, rispondeva «No, non ho mai voluto conoscerli». Sfortunatamente quella risposta giungeva solo seconda, infatti un altro Le Grandin, che lui celava accuratamente nel fondo di se stesso, che non mostrava mai a nessuno, perché sapeva sul conto del nostro Le Grandin, sul suo snobismo, delle storie compromettenti, un altro Le Grandin aveva già risposto con la ferita dello sguardo, il rictus della bocca, il tono eccessivamente serio della risposta, con le mille frecce, insomma, da cui il nostro Le Grandin si era trovato trafitto in un istante e tramortito come un San Sebastiano dello snobismo. «Ahimè, come mi fate male, no, non conosco i Guermantes, non rinnovate il grande dolore della mia vita». E siccome questo Le Grandin, enfant terrible, questo Le Grandin ricattatore, se non aveva il piacevole linguaggio dell'altro, in compenso aveva la parola infinitamente più pronta, composta di quelli che si chiamano riflessi, quando Le Grandin, il conversatore, voleva imporgli il silenzio, l'altro aveva già parlato, e il nostro amico aveva un bel mostrarsi costernato per la cattiva impressione che il suo alter ego aveva potuto suscitare. Ormai lui non poteva far altro che mitigarla ricorrendo a dei palliativi. E certo questo non significa che Le Grandin non fosse sincero quando tuonava contro gli snob. Non poteva sapere, almeno da se stesso, di esserlo anche lui. Perché noi conosciamo sempre soltanto le passioni degli altri, e ciò che arriviamo a sapere delle nostre è solo dagli altri che abbiamo potuto saperlo. Su di noi le passioni agiscono soltanto per via secondaria, attraverso l'immaginazione, la quale sostituisce ai moventi primari dei moventi di ricambio più decenti dei primi. Lo snobismo di Le Grandin non lo consigliò mai di fare visite frequenti a una duchessa, ma incaricava l'immaginazione di Le Grandin di fargli apparire quella duchessa come ammantata d'ogni grazia. Le Grandin si accostava alla duchessa convinto di cedere a quell'attrattiva dell'intelletto e della virtù che gli infami snob ignorano. Solo gli altri sapevano che anche lui era uno di quelli, infatti, incapace di comprendere l'opera mediatrice della sua immaginazione, vedevano, l'una di fronte all'altra, l'attività mondana di Le Grandin e la sua causa prima. Ora, a casa nostra, non ci si faceva più illusioni su Le Grandin e i nostri rapporti con lui si erano molto allentati. La mamma si divertiva infinitamente ogni volta che coglieva Le Grandin in flagrante delitto del peccato che non confessava e che continuava a chiamare il peccato senza remissione, lo snobismo. Mio padre invece faceva un certo sforzo a considerare gli sgarbi di Le Grandin con altrettanto distacco e allegria. E quando una volta si pensò di mandarmi a passare le vacanze estive a Balbec con la nonna, lui disse: «Bisogna assolutamente che dica a Le Grandin che andrete a Balbec. Vedremo se vi offrirà di mettervi in contatto con sua sorella. Deve essersi dimenticato di averci detto che sua sorella abita a 2 chilometri da lì». Ma la nonna, che trovava che ai bagni di mare bisogna stare dal mattino alla sera sulla spiaggia a respirare il salmastro e non si deve conoscere nessuno perché le visite, le passeggiate sono da tempo sottratto all'aria marina, chiedeva al contrario che non si parlasse dei nostri progetti a Le Grandin. E già si immaginava sua sorella, Madame de Cambremer, sbarcare all'albergo proprio mentre saremmo stati sul punto di andare a pesca e costringerci a restare al chiuso per riceverla. Ma la mamma rideva di quel timore, pensando tra sé e sé che il pericolo non era poi così incombente, che Le Grandin non si sarebbe fatto gran premura di metterci in contatto con la sorella. Ora, senza bisogno di parlargli di Balbec, fu lo stesso Le Grandin, senza sospettare minimamente che noi avessimo intenzione di andare da quelle parti, che venne a mettersi in trappola da solo una sera che lo incontrammo sulla riva della Vivonne. «Ci sono dei viole e degli azzurri nelle nuvole stasera, talmente belli, non vi pare, amico mio?» disse rivolto a mio padre. «Un azzurro soprattutto più di fiori che d'aria, un azzurro di cineraria che è strano nel cielo, e quella nuvoletta rosa, non ha anche lei la tinta di un fiore, di un garofano o di un'ortensia?» Soltanto sulla Manica, tra la Normandia e la Bretagna, ho potuto fare osservazioni più ricche su questa sorta di regno vegetale dell'atmosfera. Laggiù, nei dintorni di Balbec, in quei luoghi così selvaggi, c'è una piccola baia di una dolcezza incantevole, dove il tramonto del paese d'Auge, quel tramonto rosso e oro, che tra l'altro non disprezzo affatto, è senza carattere, insignificante, ma in quell'atmosfera umida e dolce sbocciano la sera in pochi istanti dei bouquet celesti azzurri e rosa che sono incomparabili e che spesso resistono ore prima di appassire. Altri invece si sfogliano subito ed è ancora più bello allora vedere tutto il cielo cosparso di innumerevoli petali colore di zolfo o di rosa. In quella baia che chiamano di opale, le spiagge dorate sembrano più dolci ancora perché si aggrappano come bionde andromede a quei terribili scogli delle coste vicine, a quella riva funesta, famosa per tanti naufragi, sulla quale ogni inverno molte barche soccombono al pericolo del mare. Balbec, la più antica ossatura geologica del nostro suolo, veramente Armor, il mare, la fine della terra, la regione maledetta che Anatole France, un autore affascinante che il nostro piccolo amico dovrebbe leggere, ha così ben dipinto, avvolta nelle sue nebbie eterne come l'autentico paese dei cimmeri nell'Odissea, e soprattutto da Baalbek, dove sorgono già degli alberghi sovrapposti a quel suolo antico e fascinoso, ma senza alterarlo. Che delizia compiere escursioni a due passi di lì, in quelle regioni primitive così belle. «Ah, conoscete qualcuno a Baalbek?» disse mio padre. «Il piccolo deve appunto andarci a passare 2 mesi con la nonna e forse con mia moglie». L'Écrandin, preso alla sprovvista dalla domanda, in un momento in cui i suoi occhi erano fissi su mio padre, non poté volgerli altrove, ma agganciandoli via via con maggiore intensità e sempre sorridendo tristemente agli occhi del suo interlocutore con aria amichevole e franca e di chi non teme di guardarlo in faccia, diede l'impressione di avergli trapassato il volto, come se questo fosse divenuto trasparente, e che ora lui vedesse, ben al di là di quello e oltre, una nube vivamente colorata che gli creava un alibi mentale e gli avrebbe permesso di stabilire che quando gli era stato chiesto se conoscesse qualcuno a Baalbek, stava pensando ad altro e non aveva sentito la domanda. E di solito sguardi come quello fanno dire all'interlocutore «A che state pensando?» Ma mio padre, curioso, seccato e crudele, riprese «Avete degli amici da quelle parti, visto che conoscete così bene Baalbek?» In un ultimo sforzo disperato, lo sguardo sorridente di Legrandin raggiunse il massimo della tenerezza, della vaghezza, della sincerità e della distrazione. Ma pensando senza dubbio che non gli restava altro da fare che rispondere, ci disse «Ho amici dovunque ci siano schiere di alberi feriti ma non vinti, che si sono uniti gli uni agli altri per implorare insieme, con patetica ostinazione, un cielo inclemente che non ha pietà di loro». «No, non è questo che volevo dire», interruppe mio padre, «ostinato quanto gli alberi e non meno impietoso del cielo. Oh, chiedevo, nel caso succedesse qualcosa a mia suocera e avesse bisogno di non sentirsi in un paese sperduto laggiù, se conoscevate qualcuno. Là, come ovunque, conosco tutti e non conosco nessuno», rispose Legrandin, che non si arrendeva così facilmente. «Molto le cose, pochissimo le persone, ma le cose stesse là sembrano persone, persone rare, di un'essenza delicata e come deluse dalla vita. A volte è un castello che incontrate sulla scogliera, al limitare del sentiero dove si è fermato a confrontare la sua pena con la sera ancora rosa, su cui si leva la luna d'oro, e di cui le barche che rientrano, striando l'acqua iridescente, issano sui loro alberi la fiamma e indossano i colori. Altre volte è una semplice casa solitaria, alquanto brutta, dall'aria timida ma romantica, che nasconde ogni sguardo qualche segreto imperituro di felicità e disincanto. Questo paese senza verità», aggiunse con una sottigliezza machiavellica. «Questo paese di pura finzione. È una cattiva lettura per un bambino, e non è certo quello che sceglierei e raccomanderei a mio piccolo amico, già così incline alla tristezza, per il suo cuore predisposto. I climi di confidenza amorosa e di vano rimpianto possono convenire a un vecchio disincantato come me, ma sono sempre malsani, per un temperamento non ancora formato. Credetemi», riprese con insistenza, «le acque di quella baia, già a metà bretone, possono esercitare un'azione sedativa, tra l'altro discutibile, su un cuore non più intatto come il mio, su un cuore la cui ferita non ha più rimedio. Sono controindicate alla vostra età, ragazzo mio. Buonanotte, amici», aggiunse, lasciandoci con quella rudezza evasiva che gli era consueta. Poi, tornando verso di noi col dito alzato del medico, riassunse il suo consulto. «Niente Baalbek prima dei 50 anni, e anche allora dipenderà dallo stato del cuore», ci disse. Mio padre gliene riparlò nei nostri ulteriori incontri, lo torturò di domande. Fu fatica inutile. come quell'imbroglione erudito che impiegava, nel fabbricare falsi palinsesti, un'energia e una scienza, la cui centesima parte sarebbe stata sufficiente ad assicurargli una situazione più remunerativa, oltre che onorevole, Le Grandin, se avessimo insistito ancora, avrebbe finito per costruire tutta un'etica del paesaggio e una geografia celeste della bassa Normandia, pur di non confessarci che a 2 chilometri da Balbec abitava sua sorella, e di non essere obbligato a offrirci una lettera di presentazione, che non avrebbe costituito per lui un motivo di terrore così grande, se fosse stato assolutamente sicuro, come avrebbe dovuto essere in effetti, data l'esperienza che aveva del carattere della nonna, che non ne avremmo approfittato.